data di esonerazione, tutte le altre sono confermate. Perché di questa iniziativa? È perché ci rendiamo conto, noi stessi che siamo quasi tutti dirigenti dell'ANPI, a livello provinciale, a livello sezionale, così, che siamo, diciamo, ignoranti, sì, conosciamo la storia, per eventi, per episodi, perché partecipiamo alle iniziative, perché partecipiamo a delle commemorazioni, perché comunque ce la siamo raccontata, ma in realtà ci manca proprio una preparazione specifica che secondo noi è estremamente importante proprio per poter portare fuori, non solo fra gli iscritti, ma anche fuori, quelle che sono state le radici della nostra associazione e la ragione per cui noi facciamo memoria della storia del fascismo e quindi della resistenza, con particolare attenzione in questo caso alla provincia di Como, ma in temi centrali, parleremo di Europa, parleremo di costruzione, parleremo di tante altre cose. La conferenza di stasera e questa sera è tenuta da Roberta Cairoli, storica comasca, che molti di voi conosceranno se non di persona per i tanti libri che ha pubblicato proprio anche sulla storia di Como. Vi leggo leggermente poche righe della sua biografia che viene distribuita comunque assieme al volantino dopo. Ha conseguito un dottorato di ricerca in società europee e diritto internazionale nell'età moderna e contemporanea presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa prevalentemente di storia delle donne e delle differenze di genere e di storia politica. Ha curato insieme a Deborah Migliucci, Anne Steiner, Giorgio Lucas la mostra dal pane nero al pane bianco, l'alimentazione in Italia tra fascismo, guerra e liberazione. Guarda che tra questa cosa che ho detto ho saltato un pezzo così di tutte le partecipazioni a convegni, conferenze e studi a cui Roberta ha partecipato. Questa del pane nero era promossa dall'ANPI di Milano nel 2015, è stata membro del comitato scientifico per l'organizzazione della mostra Tutti gli eroi sono giovani e belli, promossa dall'ANPI Milano, Piemonte e Brianza, FIEP, Camera del Lavoro, Metropolitana di Milano, Fondazione Vittorio, Fondazione Percioli nel 2015. Tra le pubblicazioni che sono di maggiore interesse per noi, quelle che sono interessate qualcuno, ve lo ricorda Roberta, di Roberta Cairoli, del Fabio Cani, Granata, Lidia Martin, Walter Merazzi, i cancelli erano chiusi, la situazione delle fabbriche e i scioperi del 44 a Como. I libri che cito adesso sono disponibili, per chi fosse interessato, o presso la biblioteca nostra come ANPI che stiamo costruendo, ma la maggior parte, grazie anche a Luzio, è assolutamente già registrato, può essere già utilizzato, o la biblioteca dell'Istituto di Storia, quindi anche se non troverete neanche oggi in libreria, però ci sono, quindi chi vuole eventualmente approfondire i temi che trattiamo in questa serie di conferenze trova anche i testi necessari. Nessuno mi ha fermato, anche il fascismo e resistenza è un'esperienza delle donne del Comasco, tra il 22 e il 45, edito dal nuovo libro del 2005, il Carlo Lupo antifascista, un pastore evangelico alla resistenza comasca, il Carlo Lupo pastore poeta e uomo di pace, a cura di Andrea Scon, che è il pastore protestante in cui Roberta ha partecipato a questa stesura, dalla parte del nemico, ausiliare dell'attrice spia della Repubblica Sociale Italiana, 43-45, infatti ieri la resistenza all'approccio di Cina. Brevemente, come ho detto, vi distribuiamo comunque la sua biografia, quindi la potete leggere comunque. I prossimi appuntamenti velocemente sono il 16 febbraio a Monguzzo, nella sala consigliare, con Matteo Dominioni, che parlerà di fascismo, antifascismo in Libia ed Eritrea dal 1922 al 1941. Il 2 marzo, quindi ogni la cadenza è quindicinale, sempre alle ore 15, nella sala civica di Mariano Comensi, Paolo Pezzini, sulla resistenza in Italia dal 43 al 45. Il 16 marzo, a Sala Meridiano, già Petrevano, Claudio Silingardi, sulla resistenza europea occupata dal 40 al 45. Il 30 marzo, nella sala consigliare Comuni Tremezzo, Giuseppe Calzati, sulla resistenza del Comasco dal 43 al 45, che praticamente conclude il ciclo che inizia oggi Roberta, che finirà appunto nel 43. E il 6 aprile dovremo avere Valerio Nido sulla resistenza e Costituzione, comunque sarà una conferenza sulla Costituzione. Siccome è arrivata un po' di gente dopo che avevo già detto alcune cose, le ripeto velocemente. siccome siamo anche in tanti, noi chiediamo che dopo la relazione di Roberta, ci saranno domande, ci saranno richieste di spiegazioni, ci saranno cose da dire, di evitare di parlare fra di voi, nel senso di rivolgersi a chi a già magari è già intervenuto prima, ma rivolgersi sempre a Roberta, che deciderà lei come rispondersi, tirare insieme un po' di domande o rispondere di volta per volta, ma evitare un dibattito fra pubblico, diciamo, perché questo sarebbe assolutamente dispersivo. Si possono fare tutte le domande che si vuole, ovviamente, non ci sono limiti da questo punto di vista. Quindi darei inizio a questa conferenza cedendo la parola a Roberta e ringraziandola per la sua partecipazione. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Allora, prima di entrare nel merito del tema, antifascismo e antifascismo nel Comasco, vorrei fare una breve introduzione, anche di natura metodologica, in qualche modo. Ancora oggi in realtà manca uno studio complessivo, uno studio sistematico sul fascismo puro. Diciamo che ad oggi i due testi più significativi, particolarmente interessanti, sono quello di Dante Severin, Fascismo a Como 1919-1943, pubblicato però nel 1983, e l'altro testo di riferimento è quello a cura di Giusto Perretta e di Gerardo Santoni, Il fascismo nel Comasco 1919-1943, che è una raccolta, un'antologia, possiamo dire, ragionata, che raccoglie una parte della documentazione prodotta dalle autorità locali. Si tratta in sostanza di relazioni prefettizie inviate al Ministero dell'Interno sulla situazione economica, politica, sociale, sullo spirito pubblico della provincia di Como, rapporti della questura, direttive e circolari della Federazione Fascista di Como, foglio d'ordini, foglio di disposizioni del Partito Nazionale Fascista. Indubbiamente il merito del saggio di Severin è sicuramente quello di ricostruire, almeno quantomeno il tentativo di ricostruire, anche se parzialmente, la fisionomia, la composizione sociale, la dinamica interna del fascismo locale, i rapporti con le altre forze politiche, in particolare con i cattolici, i dissidi interni alla Federazione Fascista, soprattutto dopo la marcia su Roma, quindi subito dopo la presa del potere, che riflettono in parte la crisi generale del Partito Nazionale Fascista tra 1922 e 1925, e che a Como, sul nostro territorio, contribuiscono, determineranno un progressivo e netto distacco tra fascisti e popolazione, anche perché l'unità fragile, l'unità organizzativa del fascismo si scompone in frazioni dissidenti, gruppi autonomi, feudi di potere personale. In questo senso sono proprio illuminanti le pagine che Dante Severin dedica al fenomeno del razzismo locale, quello dei ras locale, incarnato nel nostro territorio in particolare da Alessandro Tarabini, che esercitava una sorta di potere carismatico sul suo seguito di squadristi e che godette di una libertà d'azione per alcuni anni pressoché illimitata e della protezione delle alte gerarchie fasciste, in modo particolare di Attilio Terruzzi, che poi fu anche ministro e vice segretario del Partito Nazionale Fascista. Tarabini fu nominato nel maggio del 1924 federale di Como al posto di Marcello, segretario quindi della Federazione Provinciale Fascista, al posto di Marcello Baccari. Rimase in carica fino al 1929, divenendo nel contempo console della milizia, in particolare a Como della 16ª legione, e responsabile anche dell'organizzazione del dopolavoro. Concentrate nelle sue mani le principali cariche, diede vita quindi a una sorta di governo personale, attorniandosi cito testualmente le parole del prefetto Rizzati, attorniandosi di collaboratori privi di considerazione, incapaci e di condotta morale dubbia, contribuendo in questo modo a fare il vuoto attorno alla federazione. I contrasti interni poi tra tarabiniani, quindi seguaci di Alessandro Tarabini, e anti-tarabiniani, portarono addirittura nell'agosto del 1929 allo scioglimento della Federazione Fascista Provinciale e alla nomina dell'onorevole Carlo Basile quale commissario straordinario, la cui inchiesta peraltro rivelò gravi irregolarità e manchevolezze contabili, ma ciò non portò ad alcun provvedimento giudiziario nei confronti del Tarabini, tant'è vero che dopo il suo allontanamento da Como fu nominato console generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nonché poi divenne lui stesso anche vice segretario del Partito Nazionale Fascista. Tuttavia è del tutto assente una storia approfondita del Partito Nazionale Fascista, delle sue forme di organizzazione e di mobilitazione delle masse, di come in sostanza funzionava la macchina del partito, come esercitava effettivamente la sua azione nell'ambito della vita sociale e in che modo l'esperimento totalitario venne messo in opera nella concreta situazione locale, quali resistenze o sostegni incontrò, quali risultati conseguì. Per fare ciò ovviamente bisognerebbe studiare, cosa che appunto non è stata ancora fatta, le organizzazioni collaterali del Partito Fascista. Mi riferisco soprattutto appunto all'Opera Nazionale Dopo Lavoro, che fu istituita nel 1925, all'Opera Nazionale Balilla, che insieme alla scuola fu lo strumento principale che il fascismo adottò per inquadrare e irregimentare i giovani, all'Opera Nazionale per la Maternità e per l'Infanzia, e quindi a tutta la campagna demografica e alla politica eugenetica del fascismo per l'incremento quantitativo e qualitativo della razza. Ovviamente sto citando le parole, e manca anche nel saggio poi di Severin cenni significativi alla politica razzista e antisemita del fascismo a partire dalla campagna di Etiopia nel 1936. Allo stesso modo manca uno studio organico, sistematico, complessivo anche sull'antifascismo nel comasco. Ancora il testo di riferimento è sicuramente ancora quello di Giusto Perretta e di Gerardo Santoni, L'antifascismo nel comasco 1919 e 1943. Ci sono sì certe, alcuni capitoli, alcune pagine dedicate in altre opere, come per esempio nell'opera di Giuseppe Compeno, Como dalla dittatura alla libertà, che è del 1989, a quello di Marco Pippione, Como dal fascismo alla democrazia, del 1991, oppure anche singole biografie di figure di primo piano dell'antifascismo comasco, a partire dall'avvocato Pieramato Perretta, che dà il nome al nostro istituto, piuttosto che alle figure di Teresa Neroni e Battista Pezzanti, o l'opera significativa di Mario Martinelli, Aspetti del movimento cattolico comasco dal 1919-1945. Però manca appunto di fatto uno studio organico. L'aspetto interessante dell'antifascismo nel comasco di Perretta e di Santone è che si avvale per la prima volta di un corpus fondamentale per la ricostruzione della storia dell'antifascismo, vale a dire le schede del casellario politico centrale, vale a dire lo strumento che il fascismo ereditò dal regime di polizia post-unitario nel periodo triestino, che veniva utilizzato per la schedatura dei cosiddetti sovversivi e che il fascismo ovviamente ampliò e potenziò a partire dal 1922. Ecco, per la prima volta, questo testo è del 1997, per la prima volta vengono analizzate nel saggio di Walter Merazzi le schede di oltre 330 comaschi appunto schedati nella Casellario Politico Centrale, e il merito sicuramente di quel saggio è anche quello non soltanto di aver letto l'esperienza antifascista cogliendo gli aspetti specifici dell'antifascismo locale, soprattutto che sono strettamente legati alla posizione chiave, alla posizione strategica di Como, essendo appunto una provincia di frontiera, come vedremo, ma di aver letto anche l'esperienza antifascista alla luce delle categorie interpretative, delle categorie storiografiche, delle categorie interpretative che vennero elaborate all'inizio degli anni 90. In modo particolare mi riferisco agli studi di Giovanni De Luna, di Patrizia Gabrielli, di Simona Colarizzi, di Enzo Collotti, e in modo particolare Giovanni De Luna riuscì ad articolare in qualche modo la categoria di antifascismo esistenziale, cioè sottolineando come in un regime di massa, in un regime totalitario come quello fascista, l'antifascismo non poteva essere identificato con la sola avanguardia politica e intellettuale espressa dai partiti antifascisti messi fuori legge, appunto, dalle leggi eccezionali, dalle leggi fascistissime del 1926. Ma questo appunto poi sull'analisi delle schede del Casellario Politico Centrale ci tornerò appunto più avanti. Ora, avendo dato questo, diciamo, breve quadro, volevo sottolineare quelli che secondo me sono gli aspetti più rilevanti sia appunto del fascismo locale sia dell'attività antifascista che veniva appunto svolta. Allora, un primo dato che emerge in maniera evidente dalla lettura, dalla visione d'insieme della documentazione, in modo particolare della documentazione prefettizia, è la disorganizzazione del fascismo locale, il malfunzionamento delle sezioni, dei fasci di combattimento su tutto il territorio, l'apatia, la passività, la rassegnazione, lo scarso consenso che il fascismo destava in questa provincia. Il fascio di combattimento a Como innanzitutto sorge il 14 novembre 1920, in particolare attorno alle figure di Gigi Maino, Paolo Porta, che poi sarà il futuro federale di Como durante la Repubblica Sociale Italiana, i fratelli Ferdinando, Gigi Lanfranconi e il capitano Arturo Ricco. Il 17 novembre viene data comunicazione alla sede del fascio di combattimento di Milano dei componenti del primo direttorio del fascio comasco. A farne parte ci sono appunto Arturo Ricco, Franco Maccani, Augusto Tagliabue, Nino Torlenghi. Il fascio, come viene sottolineato in questa comunicazione, si è costituito con 74 firmatari, e già tre giorni dopo erano gli iscritti, gli aderenti erano 100. In realtà però bisogna anche tenere in considerazione che molto spesso in queste comunicazioni la realtà veniva in qualche modo edulcorata, quantomeno enfatizzata. Nel dicembre del 1920 viene eletta la segreteria dei fasci di combattimento comasco, di cui è presidente Ricco e segretario politico Ferdinando Lanfranconi. Il 17 aprile 1921 vede la luce il primo numero del Gagliardetto, che è l'organo ufficiale del fascio di combattimento di Como, che si fonderà poi nel 1927 con la provincia di Como. Ma dalla relazione prefettizia del prefetto Adolfo Cotta, inviato a Mussolini l'11 agosto 1923, emergeva chiaramente come a 10 mesi dalla marcia su Roma, dalla presa del potere, il fascismo in terra lariana aveva fatto pochi progressi. Ve ne leggo uno stralcio. La popolazione della provincia è in genere apatica ed indifferente, subisce e segue in distanza più che agire per proprio impulso. Nelle zone industriali essa era tratta naturalmente a seguire i rossi, mentre nelle molte zone montane, tutte di piccoli coltivatori e proprietari, dominano in genere i pago e quindi il Partito Popolare. Il partito fascista, male organizzato inizialmente, non ha saputo o potuto approfittare della vittoria del governo nazionale e dell'ondata di entusiasmo che ne susseguì, ed in qualche luogo anche nulla. I sistemi finora da essi serviti si sono alla prova rilevati inefficaci, in genere talora anzi negativi, per cui converrà cambiare rotta ed adottare metodi più efficaci, meno clamorosi se si vuole, ma più pratici, meglio consoni all'indole della popolazione, sia per penetrare sia per attrarre gli elementi migliori e più autorevoli, la cui mancanza è gravemente sentita. Il prefetto confessava anche che in questa provincia l'impiego della violenza ha fatto più nemici che proseliti al fascismo. Purtroppo la situazione non è lieta. In moltissimi luoghi della provincia i fasci non sono nemmeno penetrati, in parecchi altri non hanno acquistato la dovuta autorità sulle popolazioni né esercitata la necessaria forza di attrazione. In questo senso sono significativi anche i dati relativo al numero di sezioni presenti sul territorio, al numero degli aderenti al fascio, al numero degli iscritti al Partito Nazionale Fascista. Quindi alla data del 30 novembre 1921, quindi all'indomani della nascita del Partito Nazionale Fascista, quindi della trasformazione da movimento a partito, sul territorio di Como erano presenti 21 sezioni per un totale di 2.784 aderenti. Questa cifra scenderà nel maggio del 1922, 24 sezioni da 2.730 iscritti, e al 31 dicembre del 22 sono 2.025 gli iscritti al Partito Nazionale Fascista, e Como risulta terz'ultima tra le province lombarde per numero degli iscritti. Nel 1928 i fasci della provincia sono 153 e gli iscritti quasi 14.000. Nel 1930 sono 165 con 12.750 iscritti. Nel 1932 171 sezioni ma 9.685 iscritti tesserati. Vengono forniti anche altri dati, come per esempio il numero dei fasci femminili, 78 e 2.300 iscritte tesserati, il gruppo delle giovani fasciste, 48 e giovani fasciste tesserate, 700. Anche poi con l'inizio della dittatura di fatto, quindi nel 1925, dopo il famoso discorso del 3 gennaio, Como continua a non dimostrare grande entusiasmo per il regime, anche se non poteva fare altro che accettarlo passivamente, mancando ogni realistica possibilità alternativa. È così che il prefetto Luigi Maggioni, per esempio, sintetizza lo spirito pubblico. La maggioranza della popolazione non è di natura fascista, ma apprezza l'ordine che il governo sa mantenere e si aggrappa volentieri al partito. Ancora, nel luglio del 1928 il prefetto sottolinea che il fascismo non ha conquistato completamente le masse, né ha saputo attrarre a sé tutta la parte migliore per operosità, capacità, mezzi e autorità. Tra l'altro, in una comunicazione, in una circolare riservata, viene comunicata la lista di 38 comuni della provincia di Como i cui fasci non funzionano. E non funzionano soprattutto per veghe interne, personalismi, malaffare, mancanza di iscritti, scarsa coesione con la popolazione, scarso spirito fascista. Il 13 agosto 1928 è significativo quanto scrive per esempio il prefetto Rizzatti, facendo riferimento alla presenza anche massiccia di aderenti e simpatizzanti alle manifestazioni patriottiche e di partito, e cioè sottolinea che nonostante appunto sia massiccia la presenza di aderenti e simpatizzanti, non bisogna, questo lato esteriore non deve essere sopravvalutato. e dedursone che i nemici del regime non ve ne siano o quasi in questa provincia, né che la grandissima maggioranza della popolazione abbia aderito con convinzione, fervore e fermezza al regime. I nemici nell'animo, benché non esplichino nessuna attività e non diano segni di vita, non ne mancano. E bisogna essere vigili, pronti ad agire, severi nel colpire appena se ne presenti l'occasione, perché sepolta ogni velleità, ogni illusione di poter comunque attentare o nuocere al regime. In questo senso sono precise le mie disposizioni agli organi dipendenti di polizia. Ancora negli anni 30, nonostante il consolidamento del regime, la situazione non sembra migliorare. Nella relazione del marzo 1930 si sottolinea che i fasci della provincia influiscono ancora oggi poco nella vita pubblica locale e spesso sono circondati da diffidenza. Necessita eliminare tutti gli elementi che non hanno dato buona prova, proporre ai singoli fasci persona di indiscussa fede. Inoltre sottolinea che i rapporti tra la milizia volontaria per la sicurezza nazionale e l'autorità pubblica manca qualsiasi volontà di stabilire cordiali e reali rapporti di aperta collaborazione appunto tra la milizia e l'autorità politica. Inoltre vanno anche a rilento le attività delle organizzazioni giovanili fasciste. In alcuni casi l'aumento del costo della tessera aveva reso, specie nei comuni particolarmente disagiati, molto difficile il tesseramento, ma andava rilento anche il tesseramento degli avanguardisti e delle giovani italiane, perché in quasi tutti i comuni di ritrovo adatti e spesso anche la persona adatta a cui affidare questi giovani. L'educazione fisica è molto curata, mancano però le palestre. L'inquadramento dei reparti per ciò che riguarda la preparazione militare procede lentamente per mancanza di personale. Nella stessa relazione viene anche sottolineato in maniera significativa l'antagonismo tra l'associazionismo giovanile cattolico e quello fascista. Continua l'azione lenta ma tenace per inquadrare nelle organizzazioni cattoliche la gioventù, azione non appariscente che si svolge sfruttando l'innegabile ascendente che il clero esercita su questa popolazione. Si cerca di arginare in tutti i modi questo lavoro tenace, ma non sempre i mezzi sono adeguati, essendo oggi le risorse del Comitato Provinciale dell'Opera Nazionale Balilla limitate. Nei casi di propaganda palese da parte dei circoli cattolici si provvide con la massima energia, come avvenuto recentemente, per lo scioglimento del circolo della gioventù cattolica di Bellano, scioglimento che fu decretato previa disposizione del Ministero. Questi quindi sono alcuni esempi. Però a fronte della scarsa penetrazione del fascismo tra le masse, quello che viene messo in luce anche dalla documentazione è però anche la violenza dello squadrismo comasco, più volte deplorato nelle circolari prefettizie. Lo squadrismo è ovviamente un elemento costitutivo dell'ideologia fascista. In questo senso è illuminante peraltro la lettura dell'opuscolo Ricordare, datato 1940, un opuscolo apologetico scritto dai fascisti della prima ora, che celebra le gesta dei fascisti comaschi dalla nascita del primo fascio di combattimento alla marcia su Roma. E la lettura di questo documento, di questo opuscolo, è interessante non soltanto per documentare la violenza agita dagli squadristi contro gli avversari politici, contro le sedi dei circoli socialisti e dei giornali di opposizione, ma soprattutto per le matrici culturali, per cogliere le matrici culturali di quella violenza, dell'immaginario, dell'universo di simboli e di riti di cui si ammanta il fascismo della prima ora e che ritornerà prepotentemente, come poi vi dirà Calzati, prepotentemente negli anni della Repubblica Sociale Italiana. L'esaltazione della guerra e in modo particolare la consacrazione, la glorificazione della grande guerra trasfigurata in un'epopea di eroismo e martirio consacrata alla divinità della patria, la glorificazione della Grande Guerra è centrale per l'istituzione del culto della patria. La mistica dell'azione, del sangue uscita dalle trincee, il culto parossistico del volontarismo sacrificale, la cosiddetta bella morte, lo sprezzo del pericolo. Questi sono appunto i motivi, i temi, gli ingredienti, appunto l'immaginario appunto dei fascisti. L'adesione ai fasci viene vissuta come un atto di consacrazione della propria vita alla patria. Ed è presente quindi nel fascismo della prima ora quel totalitarismo culturale di cui ci parla per esempio Lianella Galliani, di cui ci parla anche Emilio Gentile, e cioè la convinzione del fascismo di rappresentare la patria mentre gli oppositori sono l'antipatria. Dal sentirsi gli esclusivi rappresentanti della patria discendeva l'eliminazione dell'avversario con ogni mezzo, e la violenza messa in campo per questo fine era una santa violenza, perché era indirizzata appunto all'affermazione della patria contro i propri nemici. I fascisti si considerano, come emerge non soltanto da quell'opuscolo ma anche in parte da alcune pagine del Gagliardetto, si considerano i profeti, gli apostoli della nuova religione della patria, sorta dalla guerra, consacrata dal sangue degli eroi e dei martiri che si sono immolati per portare a compimento la rivoluzione italiana. Quindi una violenza mitizzata, sublimata, come manifestazione di coraggio e di vitalità, come strumento necessario per liberare la nazione dai suoi dissacratori. L'offensiva armata degli squadristi era una santa crociata, e le spedizioni squadristiche, al di là degli obiettivi di aggressione e distruzione, ebbero anche in questo senso carattere simbolico. Il manganello e il fuoco, per esempio, furono i simboli terroristici della volontà purificatrice dello squadrismo. Ecco, vi leggo appunto alcuni stralci da questo opuscolo. Ed anche perché, dopo tanto parlare di violenti, di teppisti in camicia nera, di manganellatori per professioni, si possa anche capire e misurare quanta fede, quanto entusiasmo, quanto disinteresse ed anche quanta bontà ci voleva per guarire chirurgicamente e disintossicare, magari con l'olio di ricino, i pazzi furiosi, i traviati e soprattutto le canaglie rosse. Bastonature individuali e collettive, impeto di pochi animosi contro foglie amorfe, ubriacate dai falsi profeti, puntate energiche e salutare contro i capoccia, riempirono allora le cronache. Sull'esempio degli arditi e dei combattenti, giovanissimi veterani, uniti dal vincolo sacro dei morti, diventarono ogni giorno protagonisti di valorosi, ignorati episodi. Peraltro, due giorni prima della costituzione del fascio, in occasione del ritorno da Roma della bandiera del 67° reggimento, quelli che poi costituiscono il primo nucleo dei fascisti comaschi, ecco, i primi squadristi assaltano la casa comunale, il municipio, invadono in fondo l'esposizione del tricolore. Nel gennaio del 1921 si costituiscono le prime squadre d'azione, la Ginone Gretti, la Menefrego, la Sant'Elia, la Sinigaglia e la Oberdan, la squadra dei giovanissimi. Tra i tanti episodi che si ricordano e che si leggono qua sulla stampa, vi fu l'uccisione del socialista Giuseppe Lissi il 16 gennaio 1921 ad Albate in pieno giorno, durante l'assalto alla cooperativa di Albate, l'incendio della cooperativa di Senna Comasco, la devastazione della Camera del Lavoro di Como con relativi pestaggi e l'incendio di alcuni locali, 28 giugno 1922, e gli incidenti con spari al caffè Carducci, ritrovo abituali di socialisti e comunisti il 23 settembre 1922. Poi si legge ancora in questo opuscolo: oltre a ciò le spedizioni di Durago Marinone, di Tavernerio e di Reggio, le incursioni nelle 100 bettole sovversive di Como e provincia e negli studi borghesi dei capoccia sovversivi. In particolare il riferimento potrebbe essere anche allo studio sia dell'avvocato Angelo Nodeda, che era già appunto stato sindaco socialista di Como, il cui appunto studio viene devastato, e in quell'occasione il figlio Lionello viene percosso e morirà poco dopo in seguito alle percosse ricevute, oppure anche lo studio dell'avvocato Pieramato Perretta, che viene appunto distrutto e devastato. Poi ancora, cazzottature salutari e dispersione dei cerimonianti nel maggio del 1921 di un lungo noioso corteo di tessili che doveva inaugurare una bandiera rossa androletto, fatto che poi si ripeté nel novembre dello stesso anno, così a Tavernola, a Lucino, a Brunate, a Civiglio, così al villaggio a San Martino e nelle cooperative rosse di Como, così a Lecco, Tradate, Luino, Urio, ove più urgeva il salutare intervento delle squadre di azioni per il prevalere degli elementi estremisti, per l'intensificarsi della propaganda antifascista e antinazionale, le operazioni si susseguono. Interventi rapidi e decisi, azione drastica e generosa, violenze chirurgiche contro i maggiori responsabili e esaltazione della nostra guerra, della nostra vittoria, del diritto dell'Italia ad avere il suo posto luminoso nel mondo. Come sapete, poi dopo il congresso di Napoli nell'ottobre del 1924, Mussolini ritenne giunto il momento di prendere il potere con la forza e il 28 dello stesso mese le camicie nere marciarono su Roma. Il 30 Mussolini ricevette l'incarico da Vittorio Emanuele di formare il nuovo governo. A Como, il 28 ottobre, da Milano giunge l'ordine di mobilitazione. I dirigenti fascisti comaschi emanano gli ordini di adunata ai fascisti di Como, Erba, Cantù, provvedendo contemporaneamente a tutti i servizi di accantonamento, squadre di vettoriamento, di trasporto. Le armi, già in precedenza raccolte, vengono distribuite man mano che le squadre affluiscono al posto di concentramento che era l'Arena, quindi lo stadio, dove all'epoca appunto aveva sede la Federazione del Fascio. Il 29 mattina, dopo aver stabilito la sospensione delle pubblicazioni e dei giornali cittadini ostili al fascismo, ordine che, nonostante le proteste, venne eseguito, vennero presi contatti con le autorità militari di polizia, invitandole ad evitare ogni ingerenza politica e a non partecipare alla lotta. Ottenuto ciò, gli squadristi poterono occupare senza difficoltà la prefettura, la questura, gli uffici postali, telegrafici, telefonici e tutti gli uffici pubblici, bloccando le strade di accesso alla città. Il giorno successivo, al Teatro Sociale, viene celebrato il trionfo della rivoluzione. Il 30 dicembre 1922, il sindaco socialista Paolo Nulli, che aveva sostituito Nodeda, che era stato eletto deputato, e la giunta municipale furono costretti a rassegnare le dimissioni. Poi il comune di Como fu commissariato e in una circolare prefettizia si legge anche successiva del 1923 si legge che altri 76 comuni furono commissariati, così come fu commissariato, in qualche modo si sciolse anche poi la deputazione provinciale. Nonostante appunto la presa del potere, non cessa la prassi squadristica, anzi, e si rivolge anche verso i cattolici. Per esempio, il 9 agosto del 1923 viene distrutta la tipografia dell'ordine, che era l'organo ufficiale della diocesi di Como, e devastata la sede del Partito Popolare di Como. E i colpevoli, pur riconosciuti, rimasero impuniti. Il 17 agosto Abbondio Martinelli, segretario cittadino del Partito Popolare, viene percosso in via Garibaldi da Gigi Maino e subirà poi una seconda bastonatura nell'estate del 1923. Anche Don Primo Mogliana, segretario provinciale del Partito Popolare e direttore del settimanale La Vita del Popolo, subisce una violenta aggressione. i fascisti li gettano addosso del vetriolo che in parte poi lo sfigureranno. Moiana, poi Don Primo Moiana, verrà poi confinato, anzi fu uno, insieme a Pier Amato Perretta, uno dei primi confinati, cioè uno dei primi che verranno inviati al confino di polizia subito dopo l'introduzione, la promulgazione delle leggi fascistissime. Ora, ancora nel luglio 1923 verrà nuovamente devastata la Camera del Lavoro di Como. In realtà poi gli squadristi, dopo appunto il processo appunto in qualche modo di normalizzazione e di assorbimento durante il regime, torneranno in auge durante la guerra, chiamati a raccolta dal federale di Como Erberto Casagrandi nel 1942. Questo costituisce un comando squadre di azione ricostituendo le vecchie squadre in tutta la provincia, formate da vecchi squadristi, reduci e da giovani di fede provata che volontariamente chiedono l'onore di farne parte. Esse, scrive il federale, costituiscono un nucleo di forza vive operante su cui io conto e faccio affidamento per ogni eventualità. In realtà la costituzione di questo comando squadre d'azione nel 1942 non è casuale. Non è casuale perché proprio a partire dal 1942 si registrava una netta ripresa dell'attività antifascista che si espresse soprattutto attraverso la diffusione di libelli antifascisti e scritte murali. E poi nel 1941, alla fine del 1941, l'antifascismo si era dato anche a Como, si era dato una struttura organizzativa, cioè si crea quel movimento politico unitario clandestino di ispirazione ideologica diversa, la Lega Insurrezionale Italia Libera, che si può sostanzialmente dire che fu prefigurazione del CLN, cioè del Comitato di Liberazione Nazionale, l'organo politico che poi coordinerà e guiderà la lotta armata d'Italia dopo l'8 settembre 1943. L'anima ovviamente di questo movimento politico è Pier Amato Perretta, insieme appunto ad altre figure di primo piano dell'antifascismo comasco, appunto di ispirazione politica e ideologica diversa, dal liberale Eugenio Rosaschi al professore Ezio Chicchiarelli, che fonderà poi, sarà determinante la sua presenza per fondare poi il movimento liberale socialista, che nel 1942 contribuirà poi nel partito d'azione. Vi è il socialista, vi sono i socialisti Giordano Azzi e Paolo Nulli e tanti altri. Gli ultimi due aspetti di cui voglio parlare è proprio invece sono l'attività repressiva, anzi l'efficacia della macchina repressiva messa in atto dal regime anche nel nostro territorio e contestualmente ovviamente le caratteristiche dell'attività antifascista, le specificità anche dell'antifascismo nel nostro territorio. Per quanto riguarda l'attività repressiva, è già significativa la relazione del Regio Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza per la Regione della Lombardia il 24 gennaio 1925, in seguito, quindi ancora prima della promulgazione delle leggi fascistissime, in seguito a un'ispezione agli uffici della Questura di Como. A quella data, quindi al 24 gennaio 1925, i sovversivi schedati ammontavano a 164, di cui 13 anarchici, 57 comunisti, 61 socialisti e 3 repubblicani. E quelli che hanno soltanto il fascicolo raggiungono la non indifferente cifra di 4.825, così suddivisi: 1528 anarchici, 1199 comunisti, 1873 socialisti delle varie tendenze e 225 repubblicani. Tali rilevanti cifre, viene appunto sottolineato, stanno a provare come l'importante servizio di vigilanza sui sovversivi non sia mai stato allentato dalla Questura di Como, la quale anzi molto opportunatamente lo intensificò nel 1924, tanto che dei succitati sovversivi, ben 2185, 115 anarchici, 875 5 proposte di confine tutte accolte, 21 proposte di ammonizione, nel 1929 27 ammoniti, di cui uno in carcere e uno latitanti, 2 pregiudicati liquidati, 10 proposte di confino. Va detto poi che alla fine del periodo di confino, che generalmente durava, poteva durare dai 2 ai 5 anni, iniziava per gli antifascisti un periodo di ammonizione che comportava precisi obblighi di legge. I condannati dovevano regolarmente essere a disposizione delle autorità, erano costretti a recarsi a firmare i registri di presenza presso gli uffici di polizia, non potevano allontanarsi, frequentare ambienti sovversivi e, terminato il periodo, venivano sottoposti a un costante controllo dagli organi di polizia. Dalla lettura delle schede del casellario politico centrale, poi vedremo meglio, vi sono antifascisti condannati alla fine degli anni 20 che, pur avendo successivamente cessato di svolgere attività politica, rimasero sotto la stretta sorveglianza degli organi di polizia fino al 1942-43. Inoltre, gli antifascisti espatriati durante il ventennio vennero iscritti in un registro di frontiera e chi rientrava anche negli anni 30 venivano fatti scontare anni di confino. E questo è il caso, per esempio, di Amelia Ferretti, una figura appunto di primo piano dell'antifascismo militante comasco comunista, che poi era espatriata clandestinamente in Francia, ritorna appunto alla fine degli anni 30 e viene inviata al confino. Ora, la principale attività antifascista negli anni successivi al consolidamento del potere fascista e per tutti gli anni 30 consisteva soprattutto nell'introduzione clandestina del materiale di propaganda attraverso il confine svizzero e nel favorire l'espatrio clandestino dei perseguitati politici e nel contempo favorire anche il rientro dei dirigenti antifascisti. Quindi uno degli obiettivi fondamentali era quello di mantenere aperte le vie sicure verso la Svizzera, in alcuni casi appoggiandosi alle reti di transito costituite dai contrabbandieri, arrivando in alcuni casi a formare delle vere e proprie strutture organizzative. E numerosissime furono le segnalazioni in questo senso. Per esempio, il Ministero dell'Interno al prefetto di Como segnalava il 20 luglio 1928 che un migliaio di libertà era l'organo ufficiale della concentrazione antifascista, quel movimento, quell'organizzazione che era stata fondata a Parigi nel 1927 dai fuoriusciti italiani, in particolare dal Partito Socialista e dai Repubblicani, e che rappresentava il principale punto di raccordo tra le forze antifasciste e non comuniste. Ecco che appunto un migliaio di libertà e 2 pacchi di fogli volanti con l'appello agli italiani della concentrazione sono stati spediti da Parigi a Chiasso all'indirizzo di Romolo Molina, che lavora a Chiasso ed abita a Como, con l'incarico di ricevere gli stampati e consegnarli tramite i corrieri che provvedevano a farli circolare poi in Italia. Quanto alla concentrazione antifascista, veniva riferito che esisterebbe un ufficio della concentrazione anche a Como, incaricato di diversi compiti, tra cui quello di facilitare l'espatrio clandestino nella Svizzera. E ancora il prefetto comunica che nell'estate del 1928, in prossimità del confino, erano state arrestate 26 persone sospette e altre sotto l'imputazione di tentativo di espatrio. Questa attività, quindi, di introduzione del materiale di propaganda attraverso il confine svizzero e di favorire appunto l'espatrio dei dirigenti, dei perseguitati politici e nel contempo del rientro dei dirigenti, era svolta in modo particolare dal Partito Comunista Comasco, dai comunisti comaschi. La sola forza, il Partito Comunista fu la sola forza che in qualche modo tentò di mantenere in piedi un minimo di struttura organizzativa che puntualmente l'efficacia macchina repressiva del regime riesce a distruggere. Comunque, data la prossimità del confine, ovviamente la provincia di Como, con il contributo di elementi locali, servì in quegli anni, anche come era avvenuto durante il Risorgimento, a fare da tramite tra le organizzazioni operaie democratiche italiane e quella di altri paesi. Provenienti dalla Svizzera, dirigenti comunisti stranieri avevano incontri a Brunate, a Cernobbio, a Tavernola, a Como. Riunioni a carattere nazionale si svolsero sui monti del Comasco, nel maggio del 1924, per esempio, alla Capanna Mara su Caerba, ebbero luogo diverse riunioni, a una delle quali partecipò anche Antonio Gramsci. Nell'ottobre del 1926 a Montepiatto si tenne il congresso nazionale del Soccorso Rosso. Il Soccorso Rosso era quell'organizzazione che era stata poi creata a Mosca nel 1922 e poi aveva appunto articolazioni di diramazione in diversi paesi, che si occupava sostanzialmente di raccogliere i fondi per assistere i detenuti politici, per assistere le famiglie anche dei detenuti politici e raccogliere i fondi anche per la loro assistenza legale. E tra l'altro proprio uno dei compiti degli antifascisti comunisti era proprio quello di estendere in maniera capillare la rete del Soccorso Rosso. Tra l'altro questo compito era affidato in modo particolare alle donne, alle militanti antifasciste. Un altro compito fondamentale del partito è quello anche di creare dei collegamenti all'interno delle officine, delle fabbriche, attraverso l'attivazione di vere e proprie cellule. Tanto è vero che nell'ottobre del 1925, già nell'ottobre del 1925, il foglio, appunto l'organo ufficiale del fascio di combattimento di Como, il Gagliardetto, ne segnalava tre. A Como città, quindi una la tintoria Comense con 4 iscritti, una la società elettrica Volta con 2 iscritti, una la tintoria Pessina con 3 iscritti e 4 cellule in provincia. A Rebbio nelle officine metallurgiche 6 iscritti, ad Albate una cellula in un altro stabilimento metallurgico 1 iscritto, a Portichetto una cellula, alla tintoria Tondana 12 iscritti, a Cernobbio pure in una tintoria una cellula con 3 iscritti. Comunque molti furono gli arresti e le condanne subite dai militanti comunisti. Agli arresti e alle condanne che colpirono duramente la Federazione Comunista nel 1926, e mi riferisco in modo particolare agli arresti di Anita Pusterla e di Battista Tettamanti, che furono poi condannati nel 1928 nel famoso processone in cui fu condannato dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, in cui fu condannato anche il Comitato Centrale del Partito Comunista d'Italia, quindi furono condannati per esempio Antonio Gramsci e Umberto Terracini, Anita Pusterla appunto fu condannata a 10 anni di reclusione, Battista Tettamanti a 14 anni. Ecco. Dopo appunto l'arresto, dopo questi arresti nel 1926, nel 1927 vengono arrestati in seguito alla delazione di una spia, Mario Faletti, che si era infiltrata tra appunto i compagni del partito, vengono arrestati 5 militanti responsabili del tentativo di organizzare il Partito Comunista. Il Tribunale Speciale li condannava con sentenza del 30 luglio 1928 a pene varianti dai 3 ai 6 anni di reclusione e 3 anni di vigilanza speciale e dall'interdizione dei pubblici uffici. E ancora nel 1931, con sentenza dell'11 aprile 1931, venivano condannati 5 militanti per aver ricevuto dalla Francia e introdotto in Italia valigie col doppio fondo, centinaia di copie di giornali e manifestine. E ancora nel maggio del 1935 viene effettuata un'operazione di polizia su vasta scala e in un'osteria di Camerlata, appunto nel maggio del 1935, vengono arrestate una cinquantina di persone, 16 delle quali verranno processate dal Tribunale Speciale il 20 gennaio 1936. Tra queste 16 persone vi sono appunto figure di primo piano del comunismo locale, vale a dire Flavio Albonico, Alfonso Lissi, che poi divenne una figura di primo piano anche durante gli anni della resistenza e morì nell'ottobre del 1944 nell'azione di Lenno, e Luciano Gatti, per esempio. Vanno anche segnalati in questi anni i forti contrasti con il mondo cattolico, in modo particolare con la parte, il mondo cattolico, come vi dicevo anche, come si deduceva anche dalle relazioni prefettizie, era molto radicato nella provincia, e soprattutto la parte legata al sindacalismo bianco, che era proprio incarnata per esempio da Don Primo Mojani e che espresse appunto nella nostra provincia una vivace opposizione al fascismo. Allora, confinato nel 1926 Don Primo Mojani in Basilicata, altri sacerdoti vennero costantemente segnalati, vigilati e in alcuni casi condannati, come per esempio Don Primo Luraschi, parroco di Cagno, definito politicamente sovversivo, condannato nel 1927 a 3 mesi per avere favorito l'espatrio clandestino dell'ex deputato Guido Miglioli e successivamente ammonito, o Don Michele Giudici, che istigò la popolazione a contrariare i fascisti e per puro dispetto sosteneva i sovversivi, si oppose a far entrare il gagliardetto della sezione del fascio di Pianello in chiesa, il Pianello dell'Ario, compiendo la funzione senza proferire parole e senza alzare gli occhi da terra. Oppure Don Aristide Colombo, parroco di Vegnano, fervente popolare, diffidato perché contrario all'opera nazionale Balilla. Don Bernardino Re, parroco di Albate, che incute minacce ai fanciulli di non iscriversi all'opera nazionale Balilla, consigliando anche gli operai e i contadini di astenersi dall'iscriversi ai sindacati fascisti. Poi, come ho già detto all'inizio, essenziali per valutare gli atteggiamenti e le diverse forme di dissenso nei confronti del regime sono le schede del casellario politico centrale. I fascicoli contengono, oltre alle specificazioni anagrafiche e biografiche, annotazioni precise, estremamente minuziose, relative al domicilio, ai luoghi frequentati, ai comportamenti in famiglia e sul lavoro, alle amicizie, alle letture, alla corrispondenza con i familiari, amici e conoscenti, nonché gli stenogrammi degli interrogatori, alcune riproduzioni fotografiche, restituendoci così un controllo totale da parte del regime sui soggetti sorvegliati e schedati. In sostanza, l'analisi delle oltre 330 schede relative ai comaschi ci restituiscono l'immagine sia di un antifascismo propriamente politico e organizzato, le cui vicende ci riconducono essenzialmente a 3 ambiti, vale a dire la cospirazione interna, l'emigrazione politica, il carcere o il confino, sia anche di un antifascismo per così dire diffuso, che si espresse attraverso atteggiamenti individuali spesso non facilmente certificabili, non immediatamente riconducibili all'agire politico. Si trattava cioè di soggetti che, indipendentemente da un profondo impegno politico, comunque senza un rapporto organico con l'antifascismo dei partiti, si resero protagonisti di episodi di protesta, gesti simbolici, atteggiamenti o frasi sovversive. Un antifascismo in cui confluiva spesso anche un ribellismo istintivo, generico, primitivo, potremmo dire, ma che manifestava una significativa aria di non consenso e di adesione ai valori e aspirazioni che nascevano innanzitutto all'interno della propria dimensione esistenziale. E quindi sono tantissimi appunto anche in questo caso gli esempi che si possono fare. appunto molti soggetti verranno ammoniti, verranno condannati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, verranno confinati o messi in carcere proprio per frasi sovversive, per esposizione di fazzoletti o di bandiere rosse, addirittura anche per il possesso di fotografie di martiri antifascisti come quello di Giacomo Matteotti, oppure per aver criticato il capo del governo, per offese al capo del governo, per vilipendio alla bandiera, per vilipendio all'esercito. E ci sono appunto alcuni, ho portato insomma alcuni esempi di frasi che venivano pronunciate contro il regime con relativi provvedimenti. Per esempio, venne appunto confinato Antonio Bergottini di Bellagio per aver detto il 3 ottobre, per aver pronunciato il 3 ottobre 1983 a Milano questa frase: siamo comandati da un matto. Questo rientrava nelle offese al capo del governo e quindi viene sostanzialmente condannato. Oppure, vilipendio dell'esercito. In provincia di Como, il 26 maggio 1935, viene appunto condannato Pierino Cetti della Tremezzina, impiegato, e ancora per offesa al capo del governo Verga Celso di Bregnano. Oppure Ronchetti Pietro di Como, che disse: carogne, schiavi di Mussolini e sbirri del fascismo, viva Lenin. Offese al capo del governo, vilipendio alle forze armate, grida sediziose. E ce ne sono veramente appunto tantissime. Oppure anche questo, Bonfanti Carmelo di Missaglia: mettitele sulla patta, dice a un tale che ostenta decorazioni fasciste. Questa è da prendere. Insomma, ci sono, però appunto per frasi del genere, frasi anche pronunciate, colte dalle spie del fascismo, perché comunque, come sapete, il fascismo aveva creato una polizia politica potente, no? Che agiva sotto l'acronimo dell'OVRA, l'Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo, i cui confidenti, i cui fiduciari avevano proprio il compito, no? Di individuare gli antifascisti, stanarli anche in luogo di ritrovo pubblici, oltre che anche di in qualche modo di monitorare lo stato d'animo della popolazione. Per cui era consueto, capitava molto spesso che appunto queste spie si insinuassero appunto in osterie, negozi, e cogliessero anche sui treni per esempio, e cogliessero appunto frasi in qualche modo appunto sovversive, contrarie al governo, appunto, che criticavano appunto la condotta di Mussolini, e quindi venivano puntualmente poi denunciate. Tra l'altro, ecco, a Como, visto che appunto soprattutto dopo lo scioglimento dei partiti antifascisti furono appunto i luoghi pubblici, molto spesso le osterie, i negozi di parrucchiere o appunto di barbiere, che divennero anche sedi di incontro, di scambio di informazioni, in cui si tenevano riunioni clandestine, in cui veniva anche portato del materiale informativo. Si ricorda per esempio il negozio di parrucchiere di Ercole Bianchi, detto l'Erculine, è appunto una figura di primo piano, il negozio di parrucchiere di Mario Montofano, la valigeria di Remo Mentasti, o ancora per esempio la merceria a Maslianico di Paolo Nulli, l'ultimo sindaco socialista di Como, che dopo aver scontato il confino appunto si ritira a Maslianico e apre questo negozio di merceria. Tutti i luoghi appunto in cui appunto si tenevano incontri tra gli antifascisti, erano appunto punti di incontro, oltre che naturalmente anche le case, così come durante la Repubblica Sociale Italiana, divennero appunto delle sedi per gli incontri e le riunioni clandestine tra gli antifascisti. Quindi, parlando dell'antifascismo diffuso, dell'antifascismo esistenziale, di questo antifascismo in qualche modo prepolitico, bisogna anche porre attenzione proprio a quelle espressioni, a quella complessità delle forme culturali e simboliche, non sempre appunto esplicitamente politiche, che può assumere l'opposizione in un regime di massa. Per esempio ci sono anche alcuni episodi, alcuni gesti simbolici, come per esempio in Val Cavarnia, negli anni 30, durante l'inaugurazione di un asilo infantile, viene confezionata questa torta in cui viene posto un garofano rosso. È certamente un gesto simbolico ma significativo, che esprime ovviamente un dissenso, gesto che non passa inosservato e che provoca la reazione dei militi della milizia volontaria, appunto, della milizia volontaria per la sicurezza nazionale di Como. Oppure durante una fermata del lavoro da parte di alcune operaie della tessitura di Barzanò alla fine degli anni 20, il questore fa notare nel suo rapporto che le operaie che avevano partecipato all'agitazione erano tutte vestite di rosso. Quindi anche questo gioco di colori è indicativo comunque di una presa di distanza. Ci sono anche alcuni studi che rivelano come anche l'apatia, proprio la rassegnazione, la spoliticizzazione, eccetera, possono essere anche in alcuni casi interpretati come sintomi di un malcontento serpeggiante, come appunto di presa di distanza, resistenza alle direttive ufficiali del regime. Quindi comunque in questa direzione bisogna ancora in qualche modo studiare. Ecco. Tra le schede, poi, interessante questo aspetto, tra le schede del casellario politico ci sono una decina di schede che si riferiscono ad antifascisti o presunti antifascisti comaschi che vennero internati dopo lo scoppio della guerra nei campi di internamento allestiti dal regime fascista. Quello dell'internamento civile è uno strumento che il fascismo mise in atto contro le persone, contro gli indesiderabili, i cosiddetti indesiderabili, e contro le persone che erano sospettate sia da un punto di vista politico che da un punto di vista militare. La legislazione sui campi di internamento che entreranno in funzione immediatamente dopo l'ingresso dell'Italia in guerra, quindi a partire dal giugno del 1940, viene in realtà perfezionata, viene appunto inaugurata diciamo all'inizio degli anni 30 e poi perfezionata tra il 1936 e il 1940. Quindi l'internamento civile appunto è uno strumento per appunto colpire soprattutto quelli che erano appunto considerati gli oppositori politici sospetti appunto per motivi politici, per quanto riguarda, sto dicendo non in generale, ma anche per quanto riguarda la nostra provincia. A essere colpiti per esempio furono gli antifascisti che stavano per scontare, che stavano concludendo diciamo la pena al confino o al carcere, e quindi fu inflitta una pena ulteriore. Cioè, di fatto furono trasferiti dal confino di polizia o dal carcere in un campo di internamento. Oppure vi erano gli antifascisti che erano già stati condannati dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e quindi avevano già subito, scontato delle condanne, che tra il giugno e il luglio 1940 vengono internati come misura di prevenzione. E ancora vi sono i cosiddetti antifascisti generici che vengono internati come forma in qualche modo di intimidazione contro la popolazione. Sono quelli che per esempio ascoltano le radio straniere, Radio Londra, Radio Mosca, oppure ancora quelli che cantano inni sovversivi o che appunto criticano la condotta della guerra e offendono il capo del governo. Questa è ancora una pagina, quello dell'internamento, è ancora una pagina poco nota da parte dell'opinione pubblica, diciamo. Allora, dall'analisi poi delle schede del casellario politico emerge anche che l'appartenenza appunto che è preponderante rispetto all'appartenenza politica, quella dei comunisti, seguiti poi dagli anarchici e dei socialisti. Ed è preponderante soprattutto la presenza dell'elemento operaio. In realtà nella provincia di Como agitazioni si susseguono nelle fabbriche già a partire dalla fine degli anni 20, nonostante infatti il divieto di sciopero, il sindacato fascista e la prefettura segnalarono poi tra la fine degli anni 20 e per tutti gli anni 30 una serie di fermate del lavoro, soprattutto contro arbitrarie riduzioni del salario, dove furono protagoniste soprattutto le maestranze femminili, anche perché in parte si trattò soprattutto di fabbriche tessili. Un esempio significativo è quello dello sciopero che fu messo in atto nel 1931 allo stabilimento Stucchi di Lurate Cacivio, promosso dalle maestranze femminili, che si concluse con l'arresto ordinato dalla questura di notte di 18 scioperanti, prevalenza donne, che destò peraltro molta impressione nella popolazione civile, nella popolazione di Lurate Cacivio. Ovviamente poi con l'inizio della guerra, il peggioramento delle condizioni di vita, delle condizioni di lavoro, si innesca a partire proprio dal 1942 un ciclo di lotte operaie che avranno poi il loro culmine nello sciopero del marzo 1943, sciopero che è il più grande sciopero di massa, la più grande agitazione di massa durante il regime e che contribuisce in maniera determinante ad accelerare la caduta anche del fascismo il 25 luglio 1943 insieme ad altri fattori. Lo sciopero, come già probabilmente sapete, parte dalla Fiat di Torino all'inizio di marzo del 1943, si estende poi alle fabbriche di Milano ed anche in qualche modo la provincia di Como ne è coinvolta. Soprattutto lo sciopero funziona all'Unita di Albate, che è una fabbrica meccanica più che altro che produceva che fabbricava anche granate. Lo sciopero funziona, viene tra l'altro, vengono inviate anche appunto le appunto una vera e propria operazione di polizia nei confronti degli operai dell'Unita e che poi alcuni verranno anche arrestati. Nelle schede poi in qualche modo si trovano schedati, scusate il gioco di parole, anche alcuni studenti di Como e provincia. Quindi inizia ad affiorare, soprattutto nella seconda metà degli anni 30, quindi in qualche modo inizia ad affiorare un sottile strato di antifascismo che affiora spontaneamente tra i giovani, nonostante la rigida gabbia che li inquadra e li educa alla dottrina fascista. Il ribellismo e l'impazienza giovanile verso l'autorità costituita generano uno stato d'animo di non accettazione passiva dell'esistenza che è potenzialmente pericoloso per il regime. Da un generico atteggiamento di constatazione si passa alla formazione di sacre critiche nelle file delle organizzazioni giovanili che la dittatura fa fatica ad assorbire. Mi riferisco appunto soprattutto ai gruppi universitari fascisti, ai GUF, oppure all'interno appunto della gioventù del Littorio. E la ripresa antifascista in Italia tra il 1937 e il 1939 si deve proprio in larga parte ai giovani che poi intensificheranno la loro attività. Quindi nel caso dei giovani la ribellione esistenziale alle regole date, il desiderio di libertà e di autonomia si incontreranno e si fonderanno poi con l'antifascismo politico. Io direi che detto Roberta. Una ha iniziato parlando della necessità di questo studio sistematico sul fascismo covo, che non è mai stato fatto, o meglio, è stato fatto in parte, ma meriterebbe maggiore attenzione, per dire che l'ANCI è interessata a uno studio di questo tipo e quindi ne parteciperà anche economicamente, sicuramente economicamente, nel senso che non possiamo fare altro probabilmente, però per quello che possiamo fare anche come collaborazione da questo punto di vista penso che sia il caso proprio che l'ANCI deve cominciare a partecipare con iniziative di questo genere. Vediamo già adesso la nostra visione si dovesse concretizzarsi, parleremo con l'istituto. Tra l'altro faccio una cosa, ne approfitto per dire che sapete che l'Istituto di Storia Contemporanea è all'interno della rete che fa capo all'Istituto Nazionale Ferruccio Papi e c'è proprio un progetto di rete che riguarda lo squadrismo, visto che siamo nel 2019 a 100 anni, a un secolo dalla nascita del fascismo, alcuni istituti, in particolare quelli fiscali dove lo squadrismo fascista era particolarmente violento, stanno portando avanti questo progetto e credo che anche qui, come cose che vi ho detto, il 1800 dello squadrismo meriterebbe, anche perché comunque di fronte ne abbiamo, oltre appunto agli opuscoli celebrativi degli squadristi comaschi, ma fonti che riguardano lo squadrismo ne abbiamo, quindi insomma secondo me è un lavoro che si potrebbe fare. Sicuramente me li ricordo. No, un altro punto mi è venuto in mente, ascoltando appunto la brutta relazione, bellissima relazione, Roberto ha parlato della Capanna Mara e del comitato centrale che si tiene a Capanna Mara con la presenza di Gramsci. Io volevo ricordare a tutti, non tanto come il movimento che l'hanno organizzato ovviamente, ma quelli che non lo sapessero, dicevo che l'anno scorso la sezione di Monguzzo dell'Erbese, dell'Ampi Erbese, ha celebrato diciamo questo avvenimento facendo una merenda partigiana alla Capanna Mara, che penso vorranno ripetere quest'anno, o no? Sì. No, la scorsa è stata anche no, se la ripeteremo lo comunicheremo tutti, vediamo di essere, l'anno scorso eravamo una 40 di persone, magari quest'anno potrebbe essere 80. Sono sempre avvenimenti che si possono ricordare un po' niente, diamo la parola a chi vuole fare domande. Chiedo a chi interviene di qualificarsi con il punto di farsi riconoscere da tutti e passiamo il microfono perché c'è questo problema. Purtroppo pur essendo nuovissimo non abbiamo un wireless, quindi dobbiamo seguire col filo. No, perché non è stata troppo. Fare una domanda io. L'abbiamo comprato ieri, non è che. Fare una domanda da Api Mariano. No, parenti come nome, non come gli altri. Sì, Giuseppe Passerini. Passerini, per favore. Ah, bene, faccio una domanda. Allora, Sì. Una cosa interessante dal punto di vista storico, sociopolitico, perché il fascismo, cioè da approfondire. Perché il fascismo nella zona di Como, nel Comasco, non ha attecchito molto? Perché da quello che risulterebbe, insomma, da alcune cose che ho visto, che ho sentito, e come del resto, il discorso opposto, attecchì molto nella zona del Friuli, nella zona insomma del confine orientale, ecco, confine orientale ci sono tutta una serie di cose che si scontrarono, anche etniche, appartenenze, contrapposizioni, però è interessante capire a Como perché, forse per la presenza grossa, organizzata e comunque della Chiesa Cattolica, del movimento cattolico che comunque non vedeva di buon grado insomma la violenza, cioè queste manifestazioni così, è una componente questa, ecco, perché ci sono delle ragioni particolari, io una spiegazione è questa, che nel Comasco presumibilmente in quel periodo c'era una presenza costante di un certo movimento cattolico, comunque un modo anche così di rifiutare questa proporsi in modo violento, però altre spiegazioni non me ne so dare, se ci sono altri fattori, grazie. Forse mi sentite? Voce aspirante, sì. Senza microfono. Io faccio una domanda opposta, ma è una domanda che chiedo a te, Roberta, è la tua sensazione. Cioè, accurato che ci fu una certa tiepida adesione al fascismo, la tua sensazione è che i comaschi furono altrettanto tiepidi nei confronti dell'antifascismo oppure no? Questa è una domanda che devo chiedertela per forza, la tua sensazione, perché non ci sono ovviamente documentazioni su questo argomento. Cioè, tu da vale l'altro. Ecco, io chiedo per favore di venire al microfono perché stiamo registrando tutta la relazione e anche gli interventi, e se no ci riperdiamo alcuni se non venite al microfono. Tanto possiamo far rispondere a questi due. No, no, ci sta, ci sta. No, per farlo passare anche da davanti. Lo passare da davanti. Sì, allora per rispondere alla prima domanda, sì, indubbiamente, come emerge anche poi dalla documentazione, dalle relazioni prefettizie, c'è sicuramente questa componente appunto di un forte movimento cattolico che, come appunto dice anche il prefetto, ha un forte ascendente sulla popolazione comasca. Altrettanto forte però è anche la tradizione socialista, con la presenza diffusa appunto di circoli, di cooperative, soprattutto appunto il sindacalismo bianco, il sindacalismo rosso, diciamo così, in questa provincia insomma, hanno una forte tradizione. Per quanto riguarda non c'è appunto un'adesione entusiastica, anche perché per come si presenta sostanzialmente il fascismo, per tutte le ragioni che si sono dette precedentemente, il fatto che ci siano forti dissidi, forti contrasti all'interno della federazione fascista, del fatto che comunque fosse mal organizzato, le istituzioni funzionavano poco, il fatto che ci fosse anche una violenza diffusa da parte degli squadristi, questi sono altrettanti elementi che in qualche modo allontanavano la popolazione, che appunto è descritta più volte come una popolazione tranquilla, pragmatica, dedita al proprio lavoro, estranea comunque alle vicende politiche, soprattutto dopo appunto la presa del potere, dopo la marcia appunto su Roma nell'ottobre del 1922. Se c'è una scarsa adesione al fascismo, come ho detto, comunque siamo di fronte alla violenza dello squadrismo fascista, che dal mio punto di vista è stato detto che lo squadrismo di Como è uno squadrismo minore rispetto alle violenze compiute in altre regioni, in altre città, verissimo ovviamente. Però non è così sporadica la violenza, perché poi si carica appunto di tutti quei riti, di tutti quei simboli, di quell'immaginario di cui vi dicevo, e una violenza che poi appunto troverà sfogo poi anche ancora durante la Repubblica Sociale Italiana, perché quello che vi dicevo prima, il comando d'azione, delle squadre d'azione formato, costituito dal federale di Como, Roberto Casagrandi, costruirà poi il nucleo prima della GNR, della Guardia Nazionale Repubblicana, e poi successivamente delle Brigate Nere, quando nasceranno nel giugno del 1944. Quindi c'è un filo rosso tra appunto la violenza del fascismo della prima ora e la violenza poi del fascismo durante la Repubblica Sociale. Per quanto riguarda l'adesione, appunto l'atteggiamento della popolazione nei confronti degli antifascisti, come vi dicevo prima, esiste, c'è ovviamente un'attività antifascista portata avanti soprattutto dai comunisti, che è quella appunto più organizzata. Ci sono però tanti episodi individuali, quindi non si può parlare appunto, almeno fino al 1942, di un movimento organizzato. Per quanto riguarda l'antifascismo militante, è ovvio che si parla di minoranze, di avanguardie, ma questo appunto è un fenomeno che tocca generalmente non soltanto il nostro territorio, ma tutto il territorio nazionale. La popolazione comasca mi sembra appunto più rassegnata, più passiva, più propensa appunto ad accettare sostanzialmente l'esistente. Ma come si è detto, alcuni studi appunto rivelano come in qualche modo poi questa rassegnazione, questa non partecipazione poi alle vicende politiche o semplicemente appunto una presenza esteriore alle manifestazioni patriottiche, in realtà possono appunto sottolineare che c'è comunque una presa di distanza. In ogni caso appunto per quello che è lo stato attuale degli studi, direi che la popolazione comasca in generale non fu né convintamente fascista né convintamente antifascista. Ecco. Non so se ho risposto. Paolo Sardini dell'accezione di Mariano Cantù. Una domanda, parlando di antifascismo durante il regime si parla di vent'anni, un ventennio. La domanda è, diciamo, ci sono stati episodi individuali legati a tradizioni eccetera, o c'è stata un'evoluzione dell'antifascismo durante questi vent'anni? Mi viene in mente un giornalino che si pubblicava Cantù, un giornalino cattolico, prima del 29 sostanzialmente ignorava il fascismo, lo ignorava, dopo il 29, no, dopo il 29, insomma, dopo concordato, questo giornalino fu un mezzo di propaganda, ma diciamo si schierò dalla parte del fascismo, quindi da questo punto di vista ci fu un'evoluzione. Diciamo che appunto, al di là di questi episodi, si può parlare di un'evoluzione dell'antifascismo in questi vent'anni, oppure diciamo erano più che altro episodi individuali legati a tradizioni? No, c'è stata sicuramente un'evoluzione, tanto è vero che appunto poi... Allora, va detto, come dicevo, che comunque la macchina repressiva del regime funzionava e funzionava bene, per cui ovviamente, soprattutto negli anni 30, quando vengono appunto perfezionati tutti gli strumenti di repressione. Ci sono tanti episodi individuali, ma appunto per quanto riguarda la nostra provincia, ve l'ho detto, c'erano soprattutto le cellule del Partito Comunista che funzionavano all'interno delle fabbriche, quindi comunque c'erano dei movimenti organizzati in questo senso. Però parlare appunto di antifascismo come movimento politico veramente organizzato in cui confluiscono diciamo, tutte le forze antifasciste di ispirazione diversa, liberale, repubblicana, socialista, comunista, si può parlare solo alla fine degli anni 30 e all'inizio appunto poi appunto soprattutto con nel 1942 a livello nazionale l'antifascismo è in piena ebollizione, tant'è vero che si ricostituisce il centro interno del Partito Socialista, nasce il Partito d'Azione, in seguito appunto tutta una serie di fattori. Questo avviene anche nella provincia di Como. Le schede del casellario politico centrale in realtà mettono in luce tanti episodi individuali, molto spesso anche di persone che comunque erano in qualche modo irriducibili, nel senso erano antifascisti irriducibili, per cui persone che erano state già confinate vengono confinate di nuovo, appunto per frasi sovversive, per introduzione di materiali di propaganda, per espatrio clandestino, ecco. appunto, si subisce appunto un'evoluzione, direi che appunto la subisce in positivo soprattutto dopo il 1939, già a partire dopo la guerra civile spagnola sostanzialmente, tra il 1936 e il 1939 c'è una sorta appunto di ripresa anche tra il 37 e il 39 c'è una sorta appunto di ripresa dell'antifascismo che si consoliderà durante la guerra e poi appunto darà vita dopo il 25 luglio del 1943 a quegli organismi, a quella rete di organismi politici, prima saranno il Comitato delle Opposizioni, poi il CLN, che poi agiranno nella resistenza. Però insomma è difficile appunto prima della fine degli anni 30, è difficile nella nostra provincia parlare appunto di movimento organizzato, no? Anche perché appunto i partiti erano stati sciolti, mancavano anche le sedi, certo appunto come vi dicevo prima c'erano le case, c'erano, però voglio dire non c'era un luogo in cui coordinare le iniziative e la macchina repressiva del regime davvero funzionava benissimo, per cui i tentativi anche di costruire e di ricostituire quello per esempio del Partito Socialista, Santo Pertini prima di essere inviato al confine nel 1929 aveva tentato di ricostituire il centro interno, ma non ce la fa, viene immediatamente distrutto dalla polizia fascista. Per esempio il Movimento di Giustizia e Libertà fondato da Carlo Rosselli e Emilio Lusso nel 1929 a Parigi tenta attraverso soprattutto azioni dimostrative di entrare nel paese. Gli altri partiti, i due partiti socialisti, il Partito Repubblicano, eccetera, soprattutto attraverso l'azione della concentrazione antifascista, svolgono soprattutto attività di propaganda per cercare in qualche modo sia di orientare l'opinione pubblica internazionale contro il fascismo, anche perché sono consapevoli, cioè questo è un limite, cioè è stato definito come un limite della concentrazione antifascista, che non è possibile, che non, contrariamente a quello che invece sosteneva Rosselli, non era possibile in quegli anni, già alla fine appunto degli anni 20 e ancora di più negli anni 30 con il consolidamento del regime, non era appunto possibile far cadere il fascismo. Operare una sorta appunto di rivoluzione interna, insomma. Non lo so, cioè, anche mi sono risposto. Diciamo dell'organizzazione politica, proprio a livello anche di sentimento della popolazione, dei cattolici, eccetera, se c'era un'evoluzione oppure diciamo nei vent'anni è stato un periodo in cui c'è stato un. E c'era appunto, allora, innanzitutto bisogna distinguere, soprattutto dopo il concordato dell'11 febbraio 1929, qual era la posizione della gerarchia ecclesiastica e qual era invece quella del basso clero. No, questa distinzione ovviamente va fatta. Nella provincia di Como, benché anche comunque l'ordine fu devastato più volte, poi anche prima del concordato fu devastato comunque più volte dagli squadristi fascisti, in ogni caso sono soprattutto i parroci, è la rete delle parrocchie che funziona e che si rivela comunque contraria al regime. Ci sono molti sacerdoti schedati, cioè nel casellario politico centrale, in cui si dice che dopo il concordato, dopo la conciliazione dell'11 febbraio 1929, si chiudono in un mutismo, in una rassegnazione, non parlano, non dicono nulla, no? E questo è un segno evidente, per cui per come ancora di più, secondo me, bisogna fare questa distinzione tra gerarchia e basso clero, perché come ho detto prima qui la tradizione fondamentale è quella del sindacalismo, è quella incarnata soprattutto da sacerdoti come Don Primo Mojana, come Abbondio Martinelli, eccetera. Questo funziona, generalmente sono appunto contrari al fascismo o a fascisti. Volevo proprio fare una domanda sul fascismo e la porto con la curia, non con i parroci, ma ho già risposto tranquillamente, quindi questa è quello che la rifaccio. Invece volevo sapere qualcosa su a Como, sulla partecipazione a livello coloniale dei comaschi, cioè del fascio comasco, con che spirito ha partecipato alle guerre coloniali e se le ha appoggiate piuttosto che... Allora, purtroppo su questo non abbiamo ancora dei dati significativi, nel senso che appunto, come dicevo prima, anche nel saggio su di Dante Severin sul fascismo piuttosto che su altre pubblicazioni ci sono veramente pochissimi cenni alla campagna d'Etiopia, e quindi mi devo esclusivamente appoggiare a quello che è scritto sull'opuscolo celebrativo di cui dicevo prima, degli squadristi comaschi, scritto nel 1940, in cui si diceva che avevano partecipato alla campagna d'Etiopia con entusiasmo, ma sinceramente i dati di quanti fascisti abbiano partecipato, di quanti erano appunto entusiasti della campagna d'Etiopia e i volontari, i dati dei volontari io non ce li ho, cioè ancora probabilmente, comunque ripeto, sul fascismo comasco vanno ancora vista gran parte della documentazione. Non mi sembra, magari Fabio qua, che è qua presente, magari può smentire, però non mi sembra che neanche nel libro curato da Giusto Ferretta e Gerardo Santoni, che appunto, come vi dicevo prima, raccoglie tutta una serie di documentazioni, ci siano dei dati relativi alla campagna d'Etiopia. Fabio? No, non ci sono. Aspetta, che visto che devo sottostare alla richiesta, ci mancherebbe altro. Arrivo la tua voce, registriamo comunque. Sì, lo so, mettiamo la sicurezza. No, quello che ha detto Roberto è assolutamente corretto. Mi permetto di fare un'osservazione, parzialmente critica. Non fidiamoci troppo dei dati, nel senso che io credo che dobbiamo fare uno sforzo di fare anche su un piccolo territorio e anche per un periodo così vicino a noi, tutto sommato, che ancora sfiora, come dire, le memorie personali, sostanzialmente della storia della mentalità. Perché allora io non sarei proprio così convinto che l'adesione della città e del territorio fascista sia stata così tipica, o meglio, lo è stata tipica, ma questo è quello che chiede il fascismo, cioè il fascismo in queste zone non chiedeva altro, cioè non era il nazismo hitleriano. Su questa cosa secondo me dovremmo fare una riflessione, perché ci sfuggono alcune cose. Allora, i comaschi sono tiepidi, non lo so, però alla proclamazione dell'impero tutto lo spazio tra la casa del fascio e le abside del Duomo, comprese via Maestri Comacini e via Pretorio, sono piene di gente. E quello che noi abbiamo, sbagliando, creduto per molti anni un fotomontaggio, è una fotografia vera, sono migliaia e migliaia di persone. Cioè, lo dico perché, come metto avanti l'autocritica, cioè eravamo convinti che fosse un fotomontaggio, Poi quando alla fine ho trovato la foto fatta in controcampo dalla Casa del Fascio verso le abside del Duomo, si capisce che invece tutta quella gente lì c'era davvero. Una città tiepida. Beh, allora, io dico, facciamo questo sforzo che non è solo, che non è solo uno sforzo di tornare a verificare i documenti, i dati, i numeri, eccetera, eccetera, ma è anche quello proprio di cercare di ricostruire un pezzo di storia della mentalità. Anche perché mi permetto, ma del resto siamo in questa sede quindi non mi sembra fuori luogo, mi permetto di dire che in questo, cioè in questa adesione che non deve essere così, alla fine neanche ostentata, sta uno dei dati fondamentali del fascismo. E sta uno dei dati fondamentali con cui ci dobbiamo confrontare oggi. Perché nessuno oggi dice di essere razzista, pochi, qualche uno lo dice, per carità. Però di fatto questo è l'atteggiamento e i numeri, i dati delle votazioni ce lo dicono. Allora, se noi appunto, con tutto, lo so che sto facendo un discorso sul filo del rasoio, è assolutamente historically incorrect, se mi passate il neologismo, cioè, però secondo me su questo piccolo ragionamento dobbiamo provare a farlo in un anche in questo senso, cioè anche proprio in prospettiva storica, perché dico un'altra cosa che abbiamo cercato di approfondire proprio all'interno dell'istituto qualche anno fa, quando abbiamo dedicato un pomeriggio di studio ai due anni della Repubblica Sociale Italiana. L'atteggiamento della curia è estremamente complesso, perché è anche difficile dire i vertici stanno da una parte e i parroci stanno dall'altra e il basso clero stanno dall'altra. La figura di Macchi, del vescovo Macchi, è ambigua. Prima ancora che ambigua è complessa, perché molti dei preti resistenti, non semplicemente degli oppositori al fascismo, proprio quelli che hanno appoggiato la resistenza, lo consideravano un amico. E d'altra parte, se tu vai a vedere che cosa ha fatto, che cosa soprattutto non ha fatto, in qualche punto le ambiguità sono moltissime. Allora, io credo che per quello che parlavo all'inizio di storia della mentalità, perché per esempio sono state per me soprattutto molto significative, significativi racconti di Giordano Mazzi, testimone di prima mano, socialista moderato, che alla fine ha vissuto antifascista da sempre, internazionalista, esperantista, eccetera eccetera eccetera, e poi alla fine anche lui, la dico come l'avrebbe detto la mia nonna, per 20 anni ha cercato di passare dove l'acqua era bassa, cioè poi certo è stato uno dei protagonisti del CLN, della fondazione dell'Italia Libera. Però su questa cosa, secondo me, questa cosa a me ha sempre interrogato molto. Cioè, così come appunto i fascisti comaschi sono tra virgolette tiepidi, ma alla fine secondo me aderiscono, così gli antifascisti alla fine, e qui dico l'ultima cosa, che lo so che anche questa è politicamente scorretta, ma io mi sono progressivamente convinto che il primo potente significato del termine resistenza è proprio etimologico, è resistere, cioè stare fuori, prima ancora che combattere e opporsi. Per ogni, per ognuno che stava fuori, per un Giordano Azzi che passava, come ho detto prima, dove l'acqua era bassa, ma alla fine stava fuori, c'era la possibilità di, non domani, non dopodomani, ma dopo qualche mese, qualche anno, cambiare le cose. Quello che ho chiesto, quello che ho posto da Roberto. No, ma non è una domanda, anzi, mi sono permesso questa cosa di. Era una richiesta a noi stessi, a tutti, cioè. Sicuramente era una Roberto. Una curiosità, non so se sei in grado di dare una risposta. Donato Lamberti, sezione Marco. Guardando un po' le biografie di coloro i quali hanno fatto la lotta partigiana da lunghe parti, io sono sempre rimasto colpito dal fatto che erano tutti comunisti. Allora, voglio dire, erano ragazzi giovani, è abbastanza facile essere in qualche modo vicino al mondo cattolico quando vai a chiesa, quando sei a contatto con il parroco, è abbastanza semplice essere di idee così in qualche modo vicino al socialismo, vicino alla povera gente, ma essere comunisti significa qualche cosa di più, significa anche uno studio, significa avere un'organizzazione, di la possibilità di confrontarsi con gli altri. I partigiani che sono saliti in montagna dalle mie parti, che poi sono anche morti molti, uno era un ragazzo di 21-22 anni, era un contadino comunista, un altro era un muratore altrettanto giovane, comunista, un altro era un ex carabiniere che aveva fatto la campagna in Albania e ritorna ed è comunista. Cioè la domanda è: come faceva il Partito Comunista a organizzarsi così bene, a raggiungere anche questi posti lontani, momenti in cui la stampa non anche girava con facilità e non c'erano molte possibilità di fare riunione per addestrare i giovani? Aveva un modello organizzativo, una struttura organizzativa sul modello del Partito Bolscevico, che era nato durante la... che si era appunto strutturato in un determinato modo, perché comunque voglio dire, durante la rivoluzione del 1917, perché era appunto un partito rivoluzionario, no? E quindi era strutturato in un determinato modo. Il Partito Comunista. Ma c'era questa struttura nella c'era, nostra provincia. Nel Partito Comunista d'Italia sì. Certamente c'era, era strutturato, cioè, come altri ovviamente non sono il Partito Comunista d'Italia, ma aveva un modello, un modello, una struttura organizzativa ben precisa, articolata, diramata, che utilizzava appunto soprattutto poi le cellule. Nelle fabbriche così. Non solo nelle fabbriche. In provincia. Io non ho una notizia di una cellula comunista dalle mie parti, di una sezione, ma nemmeno di militanti comunisti nell'epoca fascista, che ci dalle mie parti, niente. Agivano in clandestinità. Sì, ma adesso quindi sarebbe potuto uscire qualcosa, ma non c'è un documento, non c'è una. Cioè, volevo sapere se voi avevate questa documentazione. Scusami. Io capisco che si era interessato alla modalità attraverso cui c'è la diffusione della stampa, l'organizzazione di cellule clandestine, questo erano era così, cioè comunque in Italia il Partito Comunista è l'unica forza politica che è riuscita a mantenere, e quindi anche il Partito Comunista di Como nel suo piccolo, e poi favorito anche dal fatto che Como fosse una provincia di frontiera, riesce comunque in qualche modo a penetrare. C'è documentazione al riguardo? Sì, ci sono, quello che vi ho anche letto, no? C'è tutta la documentazione delle relazioni prefettizie, i rapporti di polizia, i rapporti della questura, mettono in luce, no? Anche l'attività dei comunisti, le retate, gli arresti che venivano effettuati. Cioè, poi vabbè, io vi ho letto alcuni stralci della relazione, ci sono tantissimi altri documenti che, come vi ho detto, molto molto molto lavoro deve essere ancora fatto. Però, e poi c'erano un'altra fonte importante, sono anche i rapporti dei confidenti della polizia politica e dell'OVA, che spesso si infiltravano nei movimenti antifascisti, e quindi anche da questo punto di vista c'è documentazione. Poi c'è la stampa che comunque usciva in maniera clandestina, soprattutto da quello, soprattutto durante la guerra, diciamo, che inizia in qualche modo a girare molto di più la stampa clandestina. Poi dopo il 25 luglio 1943 in qualche modo viene fuori, no? viene alla luce. Però sì, il partito aveva una struttura organizzativa finalizzata ad agire in clandestinità, perché il partito bolscevico era nato così, come partito appunto rivoluzionario che inizialmente agiva clandestinamente. Io posso portare anche una testimonianza in diretta, no, diretta, direi quasi, no? Allora, mio padre era responsabile del Partito Comunista Lecco durante la clandestinità, per dire come era organizzato il Partito Comunista allora, in clandestinità. Mio padre nel febbraio del 1944, l'SS era anche all'esterno della ditta dove lavora, fortunatamente lui è fuori dalla ditta del lavoro, viene fatto avvertire dal suo principale, che era anche fascista, quando andavano certe cose, lo fa avvertire dal ragazzo. Mio padre non va nemmeno a casa, fa istruzione, con la Vaiana, perché non aveva autonomi, perché era sulla Vaiana, e così va a Milano, lui sa già dove andare, da Milano viene smistato prima nel Bresciano, quello per Camasca, non riesce. Questo era la dirigenza del Partito Comunista clandestino era organizzata militarmente. Le cellule, almeno per quanto mi raccontava mio padre, qui in biblioteca abbiamo un libro scritto, una cosa scritta a mio padre intitolata Quaderni appunti, sono gli appunti che prima di morire ha lasciato a noi figli, poi la Camera del Lavoro ha voluto stampare, la Camera di Lecco, dove racconta bene queste cose come funzionavano. Le cellule erano molto piccole, 3-4 persone. Se uno da una cella veniva arrestato, diciamo quello subito dopo veniva fatto sparire, non sparire nel senso che è stato in lago, mandato dall'altra parte, si interrompeva la catena, no? Cioè non era più possibile risalire la catena, cioè aveva un'organizzazione di tipo militare. Il comunismo è stato l'unico partito che ha avuto questa organizzazione della resistenza, non è un caso che le prime brigate che si formano sono le brigate Garibaldi, non è un caso che nelle brigate Garibaldi sono entrati tutti, monarchici, liberali, che abbiamo avuto capitano Ricci, che non era chiaramente un comunista, ma che le brigate sono state costituite dai comunisti, dai carlucci che avevano questa forma. Non è che non esistessero altre formazioni politiche clandestine e il Partito Popolare dicendo, ma che avesse questo tipo di organizzazione con una prospettiva di rivoluzione, era solo il Partito Comunista. Questo è la ragione. Poi, ovviamente, parlando delle formazioni del lago, io non so quanti sono entrati immediatamente nelle formazioni dell'altro lago, di gente del lago, e quanti invece non sono arrivati da fuori. Per dirti, in Sala Comacina c'era una sezione socialista che funzionava, perché girava intorno a personaggi che erano stati a Trentino. Ecco, c'era una lì non c'era niente, almeno io non conosco un'organizzazione sotto forme di cellule di sezione del Partito Comunista per tutta la zona del centro. Eppure quando è il momento della resistenza bocciano tutti, io sono comunisti, ma comunisti conviti, e vanno a morire da comunisti. Posso dirti un'altra cosa? Papà di mio papà, mio nonno, era un socialista di quelli che venivano arrestati continuamente, aveva perso un posto di lavoro ovviamente perché era socialista, non mi dice. Quindi mia mamma sapeva da che famiglia veniva mio padre, ma mia mamma non sapeva che mio padre fosse né un comunista né responsabile del partito di Scalecco. Vedete quando lui va a scappa, diciamo, per evitare l'arresto da parte dell'SS, quando comunico a mia mamma che lui ha dovuto andare perché doveva restare, mia mamma cade dal fico, cioè mia mamma non sapeva niente, scopre in quel momento che tipo di attività faceva mio padre, politico ovviamente, cioè erano organizzati niente, meglio di adesso, ecco. C'è anche un altro aspetto, cioè non è, vabbè, possiamo parlare del periodo precedente alla resistenza, ma molti giovani che poi finiscono nelle brigate partigiane, che sono giovani che si sono sottratti al servizio di leva della Repubblica Sociale italiana, che sono disertori, sono totalmente spoliticizzati, no? Non hanno, e quindi la brigata partigiana in qualche modo funge anche da microcosmo politico, da apprendistato politico per questi giovani. Quindi questi giovani che arrivano nelle brigate, politicamente spesso analfabeti, poi cioè, questo aspetto è uno degli aspetti fondamentali. Poi, come diceva anche, chi aderiva all'interno delle brigate, alle brigate Garibaldi, aderiva anche se non era sostanzialmente, non c'erano soltanto comunisti all'interno delle brigate Garibaldi, e soprattutto in territori molto piccoli, in territori montani soprattutto, la scelta di aderire a una brigata, di entrare in una brigata, di collaborare attivamente con la brigata, molto spesso era anche casuale, perché se in quel territorio agiva la brigata Garibaldi, se appunto agiva per caso appunto la 52esima brigata Garibaldi Luigi Crevici piuttosto che la 55esima Rosselli o la 40esima brigata Matteotti piuttosto che altre brigate, molto, cioè, a volte era veramente casuale. Dopo taccio, scusami, ma l'esempio te l'ho fatto perché parlavo di quei tre ragazzi che hanno dato vita sui monti del centro alla Primula Rossa prima che arrivasse la brigata Garibaldi, capisci? Questi qui erano politicizzati già da prima, per questo è la domanda che sarebbe. Ma poi parlando ovviamente, cioè, ci sono tanti aspetti che ovviamente vanno ricomposti, vanno analizzati, e ci sono tanti giovani che uomini e donne che poi aderiscono alla resistenza grazie anche comunque all'influenza dell'ambiente familiare, no? Perché comunque se cresci in una famiglia antifascista, profondamente antifascista, socialista, come per esempio, vabbè, io ho studiato soprattutto Ginevra Bedetti Masciari, Amelia Ferretti, che comunque erano figlie di socialiste, ovviamente è molto più, tra virgolette, semplice, no? Che poi in qualche modo la famiglia orienti le scelte e l'impegno politico dei figli e delle figlie, nonostante poi la scuola appunto cerca di fascistizzare i giovani, però c'è anche appunto questo, l'ambiente familiare e l'ambiente sociale. Se sei operaia in una fabbrica, hai anche lì un certo tipo di apprendistato politico. Se vieni a contatto con operai che sono in qualche modo politicamente impegnati, che fanno attività clandestina, eccetera, dipende molto anche dall'ambiente familiare e sociale in cui ti trovi. Non lo so, cioè nel senso, stiamo parlando, cioè sono tutti aspetti che comunque, vabbè, la resistenza è un fenomeno estremamente, estremamente complesso, così come anche come l'antifascismo è estremamente complesso e appunto ha tante, tante anime, come vi dicevo prima. Allora, Antonio. Quello che per esempio mette in luce lo studio di Luisa Tasserini su Torino, operaia e fascismo. Appunto, dicevo, mette in luce e sottolinea come siano molto complesse le forme di dissenso e di opposizione al regime in una dittatura totalitaria come è il, in ogni stampo tradizionale come è il regime fascista. Come appunto apatia, rassegnazione possono essere intesi come segni di distanza, malcontento e anche la partecipazione, questo lo diceva soprattutto Collotti in un suo studio, non va, cioè la presenza comunque alle manifestazioni patriottiche, le famose adunate oceaniche, che è una forma di autorappresentazione del fascismo, non va però confuso con il consenso della popolazione. Cioè è difficile, quando si parla comunque di un regime di massa come quello fascista, è difficile, no, connotare in maniera univoca sia il concetto, la categoria di consenso, sia la categoria di dissenso e di opposizione. C'è un grande dibattito a livello storiografico, ancora oggi, sulle categorie di consenso o non consenso al regime. Cioè, è complessa la questione. No! Da un po' che dovremmo spostare il davanti a vederlo. Innanzitutto grazie a Berta e anche di questa di questa bella iniziativa che almeno a livello personale sta creando un sacco di dubbi e sì. Sì, anche per questo servono queste iniziative, perché non è che parte bisogna farle perché per quello che abbiamo adesso, nel senso che prima Roberta nelle parole all'inizio della sua relazione ha fatto un'analisi di come era l'Italia di allora, dell'inizio del fascismo. E come ha detto prima Fabio, ci sono delle cose che sono molto attuali, che sentiamo ancora dopo tantissimi anni, si ripropongono questo stile di Italia e questo stile di politica. Non so se è una domanda o una considerazione, nel senso che dove è stato l'errore? Perché abbiamo visto che non è che non erano tutti neri, cioè c'era un bel blocco sociale che poteva dare subito delle risposte interessanti. Dove è stato l'errore? Nel senso che è stata questa apatia, questa sottovalutazione del fascismo, o è stata la paura? Voi storici, voi avete analizzato questa parte, dove è stato l'errore? Non dico nella resistenza, perché ok, dopo è partita, è nata e ci arriverà. Un'altra cosa, perché abbiamo fatto diverse iniziative anche con degli storici. Uno storico ci disse una volta, e qualche mio iscritto è qui, che riguardo alla resistenza non c'è stata solamente la resistenza attiva dei partigiani in montagna che andavano con i fucili in mano, ma c'è stata anche la resistenza passiva, chiamiamola quella. Una resistenza diversa, diciamola così. Chiamiamola civile. E questo diceva, sì, ma è più facile fare il partigiano in montagna oppure farlo in una città. Vabbè, lasciamo perdere questa cosa. Lasciamo la cosa. Partigiano in montagna. No, ma che sta, cioè, La cosa è questa, guardando i giorni nostri, quello che sta avvenendo che facciamo? Nel senso, continuiamo. Mezz'ora fa abbiamo circondato, ci siamo passati davanti, abbiamo fatto la cattiva umana in comune, davanti al comune contro il razzismo che sta venendo avanti in questo paese. Imparare dagli errori, ho fatto un corso settimana scorsa sulla sicurezza, imparare dagli errori, quindi qual è l'errore che è stato commesso? Si apre un'altra conferenza, non vai niente, non li abbiamo ancora fatti, come si dice, come dicono gli storici, è stata una belga italiana. Ancora oggi l'opinione pubblica italiana ignora qual è stata la violenza della politica razzista e antisemita del regime, ignora, come vi dicevo prima, i campi di internamento, l'internamento libero, una sorta di domicilio coatto nei comuni, soprattutto dell'Italia settentrionale, dove anche il nostro territorio comunque è stato notevolmente coinvolto, per esempio. Si è accreditata una visione della dittatura quasi buonista, tanto per usare un termine che va di moda, no? Il confino di polizia, una sorta di villeggiatura, però il fascismo ha fatto anche delle cose buone, i treni arrivavano in orario, le pensioni, tra l'altro non è che c'è la pensione, cioè voglio dire, non l'ha introdotta il fascismo, ma è nato durante il sistema pensionistico, è nato durante l'Italia liberale, nel 1898, per cui tutto nasce come se la natura e l'essenza del fascismo fossero i treni in orario, le bonifiche, eccetera. La stessa cosa, cioè nessuno si sognerebbe di dire del nazismo che il nazismo ha fatto delle cose buone perché ha dato posti di lavoro a milioni di tedeschi. Nessuno si sognerebbe di dirlo, no? Però in Italia tanto, no? La dittatura fascista rispetto a quella nazista in realtà cos'era, no? Dimenticando innanzitutto che il regime di Mussolini è stato il modello per l'instaurazione del regime nazista in Germania. Che ignoriamo la questione di cos'è stata l'occupazione italiana in Slovenia, cioè quindi nella ex Jugoslavia, in Grecia, di cos'è stata la guerra d'Etiopia, di cos'è stata la politica razziale nei paesi africani, in Libia e in Etiopia, nelle colonie. Questo ancora oggi gli italiani lo ignorano. Di com'era efficiente, come dicevo prima, la macchina della polizia fascista, il regime fascista era un regime di polizia super efficiente, no? Cioè, e poi sicuramente il fatto anche della visione, no? Anche questa del popolo che si è appunto ribellato al regime, questa visione unitaria, monolitica del popolo italiano che è tutto antifascista, che è stata criticata nei primi anni, no? Dopo il 1945, sicuramente ha prodotto dei danni, no? Perché comunque io penso, studiando, poi io in modo particolare ho studiato il fenomeno del collaborazionismo, però ecco, il collaborazionismo non è stato per nulla marginale, non è stato per nulla secondario. durante la Repubblica Sociale. Fu un fenomeno devastante, tra l'altro, di massa, il collaborazionismo al regime di Salò. Non si sono fatti i conti. Anche alcuni, appunto, Mimmo Panzinelli, per esempio, che ha fatto questa pubblicazione qualche anno fa sull'amnistia Togliatti, il modo in cui è stata applicata l'amnistia Togliatti, troppo estensiva nei confronti dei fascisti, e poi appunto i crimini italiani in Jugoslavia, in Africa, in Grecia, i criminali italiani non sono mai stati puniti. Ancora oggi non sappiamo dei campi di concentramento allestiti nella ex Jugoslavia, in Croazia. Cioè, qualcuno sicuramente sarà stato in Croazia, qualcuno sarà stato sull'isola di Rab. Sull'isola di Rab è stato allestito uno dei più grandi campi di concentramento da parte del regime fascista. Io credo che una delle ragioni sia questa, il fatto che comunque c'è questo ritorno, questo rigurgito fascista che comunque respiriamo tutti. Poi se dobbiamo appunto analizzare, cioè adesso poi non voglio entrare ovviamente in un'analisi politica. Certamente va detto che in condizioni di grave crisi economica e sociale molto spesso appunto prevale la paura e quindi si tenta comunque di far leva, come è stato appunto, come ci racconta la storia, di trovare un capo espiatorio su cui in qualche modo scaricare le frustrazioni e quindi scatenare in questo modo e dare appunto come dire, creare una sorta di contrapposizione identitaria tra un noi e un loro, no? Sono dinamiche che si sono viste nella storia e funzionano durante i momenti di grave crisi economica. Ma la Germania è nazista, cioè nel senso la storia di come Hitler è andato al potere e appunto dei risultati che ottenne nel 1933, lo sapete tutti, di come gli ebrei sono stati utilizzati anche come capo espiatorio per la tedesca e quant'altro. No? Quindi, oggi però sicuramente allora siamo di fronte, ovviamente l'Italia non può e non sarebbe assurdo dirlo che è uno stato fascista, perché mancano appunto ovviamente tutti alcuni elementi di quello che definisce la struttura a livello istituzionale di uno stato fascista. Ci sono però alcune componenti sicuramente che furono proprie del fascismo e che ci appartengono, sostanzialmente il nazionalismo esasperato, quello che oggi si chiama sovranismo, il razzismo, sicuramente sono componenti che sono tornate molto, molto forti e fanno parte della nostra storia. Poi, scusami una cosa, ci sono le leggi firmate ancora da Duce. In Germania sarebbe impensabile leggere il male da Hitler. Codice Rocco, eccetera. È complessa la materia. Non credo che in Germania non gli faccio tutte le leggi. Infatti, dico. Altre domande? Ce ne sarebbe. Facciamo, chiudiamo. Allora, io Ringrazio tutti, con la speranza di rivedervi tra 15 giorni a Mongusto, dove il tema sarà il colonialismo fascista in Africa, legato anche a quello che sta succedendo adesso, che cercheremo di legare. E ringrazio l'Istituto di Storia Contemporanea di Armando Perretti, non solo per aver ascoltato questa tema, ma perché è partner, diciamo, di questa iniziativa. Noi siamo parte con loro, comunque la stiamo facendo assieme, siamo il vicepresidente, possiamo ringraziare direttamente, ma lei fa parte, un membro del direttivo, si sta dicendo, allora ringrazio a parte per questa conferenza che si è fatta, per veramente veramente piacere, io parlo anche per questo tempo tanto e che ci possa servire per fare meglio, diciamo, sul nostro lavoro di resistenza. Grazie ancora e a tutti.